Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo in compagnia di Monica Fini. Lei è l'organizzatrice e la fondatrice di un nuovo e-commerce che si chiama Il tuo amico portiere shop. Bentrovata Monica. Buongiorno. Piacere di averti qui con noi. Noi volevamo chiederti da cosa nasce questa idea. È nata, diciamo, in questo periodo un po' particolare in cui si trova il nostro paese, anche perché comunque sentendo i vari negozianti fanno molta fatica a digitalizzarsi. Quindi con Serena Cerè, l'autrice del sito che si chiama Amico Portiere Shop, www.amicoportiereshop.com, abbiamo deciso di riunire tutte le attività, compresi i professionisti, diciamo del quartiere. Allora, io sono del quartiere Santo Stefano di Bologna, ma naturalmente l'e-commerce è dedicato a tutta Bologna, se non a tutta Italia. Ecco, molto volentieri facciamo entrare tutti. Ed è nata proprio per dare un aiuto economico ai negozianti, aiutarli a vendere in un modo nuovo. C'è anche la possibilità che uno veda il negozio e vada direttamente in negozio. Certo, c'è anche questa possibilità che noi auspichiamo che succeda. Quindi il commerciante è esonerato, l'unica cosa che deve fare è inviarci delle foto dei prodotti che vuole pubblicizzare sul nostro sito. Ecco, è un e-commerce a tutti gli effetti, c'è il carrello, ci sarà un blog dove racconteremo vari aspetti anche poco conosciuti di Bologna, e quindi verrà arricchito anche di questa parte. Ne ha conoscenza il comune anche di questa iniziativa, sia l'assessore Aitini che l'assessore del commercio e anche l'assessore Lepore, perché insomma mi hanno contattato. Decisiva. L'investimento è stato fatto dall'associazione Tuo Amico Portiere, ripeto, in collaborazione con Serena Cerè di Energie Armoniche, che ha fatto un lavoro stupendo e difficilissimo. Sì, favorire il commercio di quartiere riduce la filiera, e quindi diventa anche ecologico e poi permette all'ecosistema economico della città di restare a galla e anche di evolvere. Quindi noi lo riteniamo assolutamente meritevole come iniziativa, cerchiamo di dare, di promuovere, di incentivare l'utilizzo. Ricordiamo quindi il sito. Allora, è www.amicoportiereshop.com. Amicoportiereshop.com, e trovare tutte le cose che possono essere. Sì, adesso insomma sono entrati alcuni, abbiamo anche degli handmade, cioè sono amici miei che sono hobbisti, che fanno delle cose meravigliose, sono entrati anche loro perché è giusto che vengano conosciuti anche loro, insomma, ecco, capito? Assolutamente. Quindi, cose molto belle fatte a mano, sia con legno, sia con resina, sia con altri materiali. Quindi, visto che non si può più fare il classico shopping, vi suggeriamo di andare a fare un salto su Amico Portiere Shop. Grazie Monica. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie mille. Grazie.